Giochi sul nostro tavolo, il podcast ludico. Ciao a tutti, benvenuti alla nuova puntata di Giochi sul nostro podcast. Siamo in una forma ternaria, sono io, Fabio, Stefano e Federico, ciao. Ok, allora abbiamo anche un tema, cioè oggi vogliamo fare un po' i precisini, siccome siamo a ridosso dell'uscita dei nominati per lo Spiel des Jahres, il premio tedesco, un pochino commenteremo loro e nell'occasione magari ci allarghiamo parlando un po' di quelli che erano i nostri favoriti e che magari non sono entrati nell'Eterno. Allora, prima cosa, diciamo chi sono, diciamo che le categorie principali delle quali ci occupiamo sono quelle del gioco base e del gioco per esperti. E l'Eterne le sappiamo? Sì. Interrogo. Stefano? Quali sono? Sì, sì, le so. Allora, per quanto riguarda il Puzzillo Rosso, cioè la categoria per famiglie, abbiamo Camel Up, gioco di corse tra cammelli, Concept, gioco stranissimo, quasi un non gioco, e Splendor, uno dei favoriti di Fabio per le sue fish. Sì, giusto? Stavi attento a dirlo, perché poi a seconda se non lo pronunci bene viene una cosa che non si può dire. Ok, comunque quelli sono i giochi base, cioè per tutti. Tra l'altro quest'anno una cosa che dico subito è m'ha stupito, perché di solito tengono l'asticella bassissima, fra virgolette, e escono delle volte dei titoli assurdi, incomprensibili. Invece quest'anno sono usciti veramente, secondo me, tre titoli che ciascuno per il suo ha dei motivi, e soprattutto se la sono un po' fregati del discorso case produttrici quest'anno. Ma dai, non è che cioè non credo che tutte le volte stiano lì a guardare le case produttrici, o sì, secondo te sì? E guarda, cioè quest'anno, io ci ho fatto caso, non c'è un Cosmos. La Cosmos è stata grossa. E tra l'altro è l'anno della Pegasus, proprio tantissimo. Però ti dico, se tu guardi nei tre titoli, Egert è uno, va bene, la Egert è una casa che comunque negli ultimi anni sta avendo abbastanza successo, ma Splendor è della casa francese Space Cowboys, e Concept è addirittura della Rebel. E sono, sia Splendor che Concept, sono due titoli che in Germania sono distribuiti... Ci aiuti te, Nero, pochino? Sì, io non li ho visti nei negozi, tendo che il titolo dello Spiel des Jahres mi dà come editore Space Cowboys e come forse distributore Asmodee, perché Asmodee, pur essendo francese, ha una parte tedesca. Sono sempre loro comunque, cioè, sì. Asmodee e Space Cowboys sono stessa gente che hanno fatto due società differenti. No, però l'unica cosa è che l'Asmodee, cioè, per dirti, non so, la Egert probabilmente li distribuisce solo in Germania i suoi titoli, sì, e magari si prende un altro editore che glieli stampa e lo distribuisce in Francia. Invece l'Asmodee, che è francese, fa da distributore anche in Germania. È un po' un giochino per dire che quello lì può concorrere. Esatto, sì. Mentre magari il titolo italiano non concorre se non ha un editore tedesco che glielo lo distribuisce, esatto. Sì. Comunque, ma colpito in questo senso. Poi per carità, anche gli anni scorsi sono usciti dei editori piccolini, tipo come era quel gioco di calcio, ci sono quei giochi di dadi, quelli tipo la dadi tedesca. Quix. Sì, quelle cose. A volte sono uscite delle sorprese di quel tipo, però in genere un occhio di riguardo, perché ci sia un certo bilanciamento tra i consigliati e gli altri, che le case. Cioè se tu guardi i consigliati c'è cioè una Ravensburger, una Zoch, una Uch, una Pegasus, cioè. Hanno cercato di dare contenti tutti. Fare contenti tutti, sì. Sì. Anche perché se no, cioè, cosa ci metti a fare il Potato Man? Sai, sì. Cioè, visto che te sei l'esperto, cacchio è Potato Man? In effetti, allora, ho scritto una recensione che sarà online a breve. Sì. Comunque, si tratta di un trick taking, tanto per cambiare, quindi una briscola per chi... Che palle. lo so. Sono i giochi, cioè, uno che no, vabbè, ma... se compra Ugo, cioè, voglio dire. No, vabbè, ma questo ad esempio l'ho provato perché un tizio ce l'aveva, ma voglio dire, dopo che abbiamo finito io veramente volevo suicidarmi, perché era veramente terribile. A partire dal nome, Potato Man. Sì. uomo qua. Sì, sì. E tra l'altro è, vabbè, non è neanche tanto nuovo, perché a quanto pare era, insomma, era in giro a in cerca di editori da anni, e quindi incredibile che abbia fatto. No, sei in cerca di editori da anni, potato meno. Incredibile che abbia fatto questa cosa. Ma no, in realtà mi hanno detto che il tema è stato scelto dall'editore. Non so come fosse, originalmente sarà stato un gioco, l'avranno fatto con le carte da briscola e basta. Quelle cose, cioè, io ho sentito che tipo i tedeschi hanno delle tematiche che ritengono, cioè, invincibili, degli assi vincenti. Cioè, tipo, nei giochi ci metti una cacca. E se sono giochi indirizzati in pubblico anche per bambini, da loro ha per forza successo. Beh, c'è da dire che sicuramente la patata è l'elemento fondamentale. La patata probabilmente, poi vabbè. Il problema è man. A sto punto metti potato woman, sei già messo meglio, insomma. Va bene. No, vabbè, comunque, in breve, per raccontarvi Potato Man, si tratta di, appunto, di una sorta di briscola dove ci sono queste carte patata, quattro semi in quattro colori, e delle carte punteggio sempre in questi quattro colori, e a partire dal giallo, mi pare, ogni colore è sempre più potente. E c'è questa cosa per cui il Potato Man, questo déjà vu col gioco dei fagioli, ma va bene. Allora, c'è questa cosa per cui il Potato Man, che è giallo e vale 2 o 3, dipende, è la carta più bassa del gioco, mentre l'Evil Potato, che è rossa, vale 16-17, che sarebbero le carte più alte, però diciamo che Potato Man batte sempre l'Evil Potato. Quindi c'è questo, si chiude il cerchio. Una meccanica che mi fa impazzire. La mia si chiude il cerchio, esplodendo per l'eleganza del game design. E quindi, vabbè, in breve funziona in questo modo: il primo giocatore è libero di giocare cosa vuole, e quello successivo in pratica deve giocare una carta che non sia già stata giocata. Quindi, siccome sono quattro colori, tu man mano devi giocare gli altri colori che non sono ancora in tavola, e c'è un'eccezione in 5, perché volevano farlo anche per 5, per cui in 5 puoi giocare fino a due colori uguali. Che eleganza, ecco. E alla fine cosa succede? Chi ha vinto con la carta più alta, indipendentemente dal colore, prende una carta punteggio del colore con cui ha vinto la mano, diciamo. Chiaro? Sì. Più o meno, il concetto è che è un gioco che ha molto a che fare con quell'altro archetipo tipico dei giochi tedeschi, ce l'abbiamo presente. Ah, sì. Vabbè, no, ma per dirti, però, era difficile per la Zoch quest'anno trovare un titolo, cioè, la Zoch l'anno scorso aveva fatto una roba tipo Riffraff, cioè quest'anno ci ha portato Man, c'ha Vacca Loca, Mucca Pazza, cioè... Dire, ma piuttosto era più bello quello con i dadi, quelli fatti con le botti, no? Mi sembra che era... Sì, carino. Come si chiama? Carinissimo quello. Ploster, non so. Polter, bravissimo. Meno male che sono io il tedesco, poi... Polterfass, bravissimo. Ragazzi, ma vogliamo parlare di Love Letter non nominato e solamente tra i raccomandati? Ha aperto un trend di giochi in tutto il mondo, cioè i microgames. Sì, ma tra l'altro, due motivi. Il primo è che stanno cominciando un pochino i tedeschi a vergognarsi. Ma di cosa? Nel senso che loro sono in capofila come concorso in Europa, cioè sono il concorso che si guarda di più. Cioè, francamente, chi si rifila ai concorsi portoghese, spagnolo, italiano, roba del genere. Guardano tutti lo Spiel degli Jahres tedesco. E già più volte in passato hanno dato il premio o i consigliati a giochi che negli altri paesi erano usciti molto prima. E tutti hanno guardato e hanno detto, ma che cacchio di concorso è lo Spiel? Quest'anno hanno detto, va bene, ok, è un gioco carino, però, come dire, sono già due anni che è in giro nel resto del mondo, perché è uscito prima, è uscito in giapponese. Sì. Poi è uscita l'anno scorso l'edizione dell'AEG e quest'anno se ne è accorta anche la Pegasus. Tra l'altro l'edizione tedesca è bellissima, perché usano queste carte tarocco, diciamo, molto più grandi. Sì. Quindi, sono sempre 16 carte, però invece di essere belle formato grosse, carta normale, sono proprio grosse. Quindi visto che comunque giochi solo con quelle 16 carte, è bello che siano belle, grandi, belle. Però, questo secondo me è la prima cosa. Ma il secondo motivo è che l'anno scorso avevano voluto dare un segnale diverso. Cioè l'anno scorso loro hanno dato il premio a Hanabi, perché è un giochino di carte da pochi euro. Volevano trasmetterti il messaggio: in un periodo di crisi tu puoi divertirti tantissimo spendendo pochi euro, punto. Siccome erano già un anno o due che facevano di vacche magre, ha detto cacchio, cioè quest'anno cambiamo trend. Quest'anno hanno preso dei giochi che potevano essere realizzati in modo più economico, perché se vai a vedere sia Splendor che, cioè tutte e tre sono titoli che potevano essere realizzati con una minore attenzione ai componenti costando meno della metà. Perché, cioè Splendor, se non c'aveva le fish, potevano distribuire una scatolina di quelle piccoline, esagerando, una scatola del doppio di quelle delle carte, proprio esagerando, e invece l'hanno fatta, cioè potevano fare un giochino di carte Splendor, poteva essere un giochino di carte da 10 euro. Sì, perché al posto delle fish facevi le carte e via. Bravo. Al posto delle fish ci mettevi delle carte colore, e al posto delle tessere addirittura ancora carte. Ti veniva con un mazzetto di carte, forse poteva essere un gioco Adlung addirittura, di quelli da 7 euro. E invece hanno scelto di fare una cosa diversa, è stato notato. Come gioco Adlung forse non se lo sarebbe filato nessuno. Anche sì, perché non sentivi il click clack delle fish. Beh, ad esempio se posso dire, Concept mi ha ricordato molto un gioco di Zizi e Chiarvesio che si chiamava Movie, l'avevo anche recensito. Ah, sì. Movie Trailer. Bravo, sì. Movie Trailer. E praticamente lì dovevi fare indovinare il titolo di un film utilizzando delle tessere con delle immagini, praticamente. E il concetto era un po' lo stesso. In Concept praticamente devi fare indovinare un concetto utilizzando delle icone che ognuno può interpretare a piacimento, insomma c'è poco altro. Sicuramente è fatto in maniera molto più curata rispetto a Movie Trailer, però voglio dire, mi ha ricordato moltissimo quel gioco, e quindi insomma non posso che notare la parentela. Sai cos'è? Concept secondo me è un gioco che fa paradossalmente fa molto Hasbro. Sì. Fa molto Hasbro, perché comunque è un gioco con pezzi di plastica, e quindi già è diverso dal solito. E poi è proprio un party game. Sì. Un party game, sì, proprio, sì, così. Sì, sì. Nel quale ti scordi completamente l'obiettivo del gioco e, sì, e giochi per giocare. Bravo. E per divertirti piuttosto che per vincere. Anche guarda, la sera che l'abbiamo giocato a Modena, sì, ti ricordi, l'aveva portato proprio Paolo Mori. E diceva, un gioco molto carino, molto intelligente, eccetera, eccetera, e diceva, peccato che si sono dimenticati il concetto dei punti. Sì, esatto. E questa è stata criticata un po' tutti. L'unica cosa è che effettivamente è classico gioco, ti dico Hasbro, ma non per dire, cioè Hasbro fa anche dei giochi, ma è Hasbro, diciamo, cioè, da mercato di massa. Da mercato di massa, cioè sì, è un gioco da mercato di massa nel quale tutto sommato, cioè ti accontenti di presentare la bella idea. E non stai a preoccuparti di volerlo chiudere poi sto titolo. Cioè non vuoi dire, cioè finiamo sto cerchio, no? E andiamo a cercare un meccanismo un pochino più complesso, metterci qualcosa di più strategico. Alla fine ha detto, vabbè, ascolta, cioè ci fermiamo lì, così lo giocano tutti. Sì. Se poi cominciamo a metterci delle cose, allora arriva il sapientino, arriva che... No. Il bello per loro è giocarlo. Non è vincerlo, è un po' un concetto filosofico che i gamer sono riusciti a rovinare Dixit, e io sono fra quelli che lo ha rovinato, nel senso andando a spoilerare il fatto che tu hai a che fare per esempio con un tuo amico che avete delle esperienze in comune, sì, che nessuno altro ha, e ti basi su quelle per giocare a Dixit. Come sei bravo, hai vinto Dixit, quindi insomma il bello di Dixit è giocarci, e anzi dire, ah, ma sì, io ho messo questa carta qui perché pensavo che, e fare il commento, diciamo, al 90%. Sì, ma come hai fatto a capire così? Cioè quello hai fatto. E loro in Concept hanno voluto proprio toglierti proprio quello, nel senso che in pratica non ti hanno quasi detto come si fa a vincere. Sì. Punto. O comunque te lo rendono possibile per tutti, nel senso che non ti danno un tempo limite, non ci mettiamo clesside o roba del genere. Cioè deve essere uno che tira giù le braccia e dice, ok, no, questo qua non riesco a indovinarlo, possiamo passare a quello dopo. Questo è un po' il concetto, no? E allora, però è bella l'idea, perché, cioè, per dirlo a quelli che non sanno che cos'è Concept, abbiamo un tabellone sul quale ci sono tutta una valanga di potenziali categorie che tu devi utilizzare per far indovinare la parola che, come in Tabù, ti capita sulla famosa carta, cioè tanto per andare sui giochi di massa. Quindi tu hai una parola in mano, per esempio, non so, Waterclose, non so come mai mi è rimasto in mente quello, forse per associazione mentale col gioco, ma dai, non è male. Vabbè, ma tanto noi mica siamo giurati dello Spezia. Vabbè, comunque no, è bella l'idea. Comunque, il discorso è che invece di farglielo indovinare col mimo, farglielo indovinare usando parole, roba del genere, che stai zitto, hai dei cubetti e devi piazzare i cubetti sulle varie illustrazioni che ci sono sul tabellone per farglielo capire. Per esempio, ci sono dei cubetti che hanno colori, allora uno o più cubetti li metterai sul bianco per far capire che è una roba bianca. Ci sono dei cubetti che ci sono più o meno, cioè c'è una casa, quindi dici ok, lo metti su quello perché... Un cubetto lo metti sulla casa per dire che è una roba bianca che sta in casa. Poi, non lo so, c'è la crocetta del sanitario, lo metti lì. Allora, una cosa bianca che ha a che fare col sanitario che è in casa? Spazzolino da denti? No, cioè, cosa vuoi che sia? Poi, non lo so, non ci sei ancora arrivato. Allora vai sui rifiuti, metti un quadratino anche lì sopra. E così via. È chiaro che poi più quadratini metti, più ti incasini. Nel senso che... Però è geniale ed è anche da studiare come hanno pensato il tabellone, no? Pensare che con tutte quelle icone, che non sono tantissime, riesci comunque a dire tutti quei concetti. Il problema è lì, cioè per un gamer, infatti io l'unica cosa che non ho ancora accolto, anche perché non l'ho comprato e quindi non l'ho proposto a gente fuori dal giro, non so quanto poi un pubblico di massa può rimanere spiazzato di fronte a tutta quella valanga di categorie. Sì. Cioè, ecco, sotto quell'aspetto lì c'è un'idea facile per tutti, però non so quanto alla fine poi effettivamente sia così per tutti come lo sono i giochi dell'albero. Ecco, questo per essere chiari. Ecco. Quindi non vorrei che poi rimanesse né carne né pesce, però vabbè, è un gioco che ha dei motivi per essere nominato. Così, mentre Splendor e Camel Up, secondo me, sono stati nominati per via dei bellissimi componenti. Anche se devo dire, io con Camel Up un po' di risate me ne sono fatte, anche se cioè, lo so benissimo di star giocando un gioco stupidissimo, però mi ha comunque fatto sorridere parecchie volte. Se ti fa vivere l'esperienza, come dire, della race, cioè della gara e della rocamboleschità della gara, va bene. Sì. Vabbè, io nel mio personale Toto Spiel, Camel Up l'avevo preso. Così come avevo preso anche tra i consigliati Love Letter, che anch'io pensavo che potesse andare anche, e Sanssouci addirittura. Non ci ho giocato. Ci abbiamo giocato a Sanssouci. Sì, quello gioca assolutamente insulso. È quello lì del parco. Del giardino. Sì. Però sì. Inspiegabilmente i tedeschi ci giocavano tanto, poi per quanto mi risulta se l'è dimenticato tutto il resto del mondo. Però sono riuscito, era Weisburger, sì. E alla fine se lo sono ricordati. Invece mi è spiaciuto per Abluxen, che era su quale puntavi. Invece Fall Schaff della UCH, titolo che quando l'ho letto non mi ha detto niente, e invece è un gioco ideato da un italiano, che è Francesco Rotta. Sì. Questo però è soltanto consigliato, no? Sì, sì, è soltanto. Sì, soltanto, scusi, sì, no, per carità. Cazzo. No, ecco, tra l'altro, anche qui lo dico, cioè per me è stato un punto d'orgoglio, no? Per lui sarà stata un'enorme gioia, nel senso che comunque finire nei consigliati. Per me è un punto d'orgoglio perché lo andai a pescare io, se non ero nel 2010. Si chiamava Split. Si chiamava Split e gli feci un'intervista. Cioè, 4 anni fa ho beccato un consigliato e quando nessuno sapeva neanche che esisteva, perché cioè, Split lo faceva una casa francese, già io l'avevo trovato. Infatti l'autore poi si è presentato nei commenti dell'articolo dedicato proprio ai nominati e si è ricordato di quello e quindi mi fa piacere di aver in qualche modo contribuito. E tra l'altro, se non sbaglio, su Board Game Arena si può anche giocare online. No, a questo... perché l'hai detto? Ma hai appena tolto n.000 ore. Vabbè, poi andando avanti, quindi abbiamo detto Sanssouci è un po' per noi un po' insulso. Poi Fall Schaff, splendido gioco del nostro conterraneo. L'uomo patata, stendiamo un po' pietoso. E quindi questi sono un po'. Poi abbiamo SS Titanic. Vabbè, SS Titanic che è praticamente un solitario multigiocatore. Vabbè, vedi la Ludonaut che hanno dimenticato per Lewis and Clark, sul quale molti. Bello Lewis and Clark, ci ho giocato, mi è piaciuto molto. Vabbè, vedi. No, ci ho giocato anch'io, effettivamente. A te non ti è piaciuto, ti sento già da come lo dici. No, a me è piaciuto. Mm. È piaciuto, ma. È piaciuto, ecco. Sei, ma. puntini puntini, mi è piaciuto male, cioè nel senso che effettivamente è un bel gioco, ne vale la pena. Ciò fa l'unica cosa che effettivamente, come dire, è strano che sia piaciuto a te perché è a bassa interazione per certi aspetti. A me è piaciuto molto l'aspetto del della bella, diciamo, coerenza fra le meccaniche e il tema, sì, nel senso del tornare indietro, le canoe che ti fanno tornare di più indietro se non le migliori. Chiaramente poi ci sono delle meccaniche che dici vabbè, ma questa che cazzo vuol dire, però vabbè, insomma. No, poi illustrato bene, anche quello mi è piaciuto molto bene. Tutte sono stati bravi, tutte le immagini con illustrazioni tutte differenti, cavolo, non è mica da poco, No, invece passando a quelli per esperti, lì sono stato decisamente più bravino nel mio Toto Spiel, perché tra i consigliati l'avevo, se non erro, li avevo tutti e tre indicati nel... Ne avevo citati un sacco, quindi abbiamo quello. Amerigo, Russian Railroads, sicuramente. Sì, sì, vabbè, ma avevo citato anche, dove cavolo, sono gli altri, sì, più o meno l'avevo citati, nel senso che Concordia, sì, perché l'avevo messo, non lo consideravo uno dei potenziali vincitori, non si sa mai, magari mi smentiscono. Tra l'altro è uno dei, cioè io sono un fan di Mac. Ho giocato quasi tutti i suoi titoli, i titoli Mac Games, ed è uno di quelli che mi è piaciuto di meno. E vabbè, ma suoi, dopo, dice, che fai Imperial, come fai a non... No, a me quello che è piaciuto di più suo è Navigador. Ah sì? Perché è un gioco che... perché è un gioco... Navigador sta in un'ora, cioè è proprio la sintesi, c'ha la rondella... sta in un'ora e ha quel meccanismo veramente, cioè, bello, intelligente del mercato che si modifica. E, cioè, tu hai proposto delle meccaniche intelligenti, facili da capire e strategico, tutto in un'oretta. Cioè, secondo me ha distillato quelle che sono un po' le sue idee. Io ho giocato diversi dei suoi titoli, quello lì secondo me Navigador lo considero il migliore. Però ho trovato strano la nominazione di Concordia, perché... praticamente rispetto all'anno scorso, no? L'anno scorso c'era, ha vinto Andor e c'era anche Palazzi di Carrara, no? Sì, sì. Cioè non lo so perché, ma Concordia premetto che non l'ho giocato, solo ho dato un'occhiata al regolamento, ma mi dà proprio l'idea di un gioco che è pesante, cioè, è un po' più pesante. Non è tanto veloce effettivamente, cioè la cosa che mi ha lasciato tiepido, ma sin da quando lo provai alla Play l'anno scorso, che l'avevo giocato il prototipo, che praticamente era già quasi così, mi è sembrato un gioco piuttosto lento. Cioè è un deck building, ma un deck building non è un deck building, c'è una plancia, devi ragionare sulla plancia, non devi ragionare sulle carte che ti metti in mano. Vabbè, guarda che alla fine i punti li fai sopra delle carte che hai, certo, questo è vero. Poi le carte, cioè le cose che fai sulla plancia le fai a seconda di come utilizzi le carte quando le prendi su e roba del genere. Ha mescolato la cosa intelligente che ha fatto lui, ma poi il Blue Mac non è mica uno scemo, cioè è riuscito a inserire il deck building come asservendolo a un gioco da tavolo, cioè dove c'è costruzione reti e maggioranze e quant'altro. Cioè è riuscito a fare un bel mix, quella è l'intelligenza sua. L'unica cosa che l'ha fatto in un gioco che sta comodamente nel paio di ore, due ore e mezza, quello che sono a seconda di quanto giochi, è un gioco che è comunque abbastanza ripetitivo come meccanica. Sì, è vero. Quindi il discorso è quello che gli manca un pochino la freschezza. Cioè, mentre adesso cerchi di fare anche gioco pesante, cerchi di farlo più contenuto. Questo qui è un gioco che poteva essere più leggero e lo percepisci come più pesante. Questo è quello che mi è piaciuto di meno a me, Però rimane un bel titolo, cioè un titolo che comunque ti chiudono cioè probabilmente se mi mettessero in prigione per un mese e trovo nella stessa cella altri tre giocatori, avrei un culo pazzesco. Noi possiamo metterci d'accordo per un crimine da fare. E poi tutti insieme. Allora sì, cioè Concordia probabilmente lo scelgo, perché a quel punto ho il mio mese in cui cacchio non c'è niente da fare, allora a quel punto forse... non mi dà più tanto noia il fatto che sia un po' più lungo della media e che sia un po' pastosetto, dico cacchio, arriva alla fine del mese che lo giochiamo, facciamo la varietà di mezz'ora. Ecco, invece Rococò è più o meno, dal punto di vista logico è molto simile sia a Concordia che se vai a vedere anche a Lewis and Clark. Tra l'altro mi dà durata 120 minuti, caspita. Rococò. Ma ecco, Rococò, anche questo, non ci è piaciuto più di tanto, ce l'ho, tra l'altro l'ho comprato, direttamente Essen, non ci è piaciuto più di tanto nel senso che ha un meccanismo di deck building anche lui, ha servito al meccanismo, al gioco, eccetera, eccetera, e poi l'hanno messo, è molto sintetico, nel senso che anche lì, anche quello è un gioco dove la mano deve crescere poco, come è Lewis and Clark. Sì. Cioè Lucien Clark si è penalizzato se fai una mano troppo grossa. Sì, anche sì. Qui, anche Rococò è un gioco con uno sviluppo della mano piuttosto limitato, cioè ti stimola a tenerlo intelligente dal punto di vista. L'unica cosa hanno fatto, li potevamo stupirvi con colori ultravivaci, è diventato un macello di colori. è molto bello il tabellone, le cose le vedi, eccetera, eccetera, però poi perdi un casino sul colpo d'occhio. È un po' una cosa, un difetto che avevano i tabelloni della Fantasy Flight qualche anno fa. Cioè che erano fatti talmente belli, talmente ben illustrati, che poi effettivamente quando ti distraggono e perdi il colpo d'occhio nel gioco. Quindi anche questo un tabellone poi enorme, molto ingombrante, cioè poi alla fine è quando il materiale viene spinto all'eccesso, no? E quindi ti dà noia invece che essere utile. Sono abbastanza cattivo stasera. Sì. Sì, oggi sì. No, invece a me è piaciuto molto Istanbul, non so se l'avete... Istanbul non ho fatto ancora tempo a provarlo. No, nemmeno io, lo voglio troppo giocare. Ecco, mi è sembrato, l'unica cosa, la meccanica, perché ho letto le regole e tutto, mi è sembrata non nuovissima, perché mi sembra che ricorda Palais Royale. Allora, parecchi giochi di Dorn usano questa meccanica, quindi ce n'è uno, mi pare si chiami Louis XIV, una cosa del genere. Siamo ambientato ad Istanbul, ci sono queste tesserine con diversi posti in cui andare e dove svolgere varie azioni, e lo scopo è guadagnare 5 rubini. E, insomma, come lo spiego io, praticamente tu hai questa pila di aiutanti più il tuo mercante, però il mercante da solo non sa fare nulla e si fa aiutare dagli aiutanti, quindi da solo non può fare nulla, può fare qualcosa solo se un aiutante lo fa per lui. Mi piace molto questa critica sociale, anche se in realtà è una meccanica molto tedesca, no? Però mi piace molto che abbiano deciso di abbinarla un po' a questa cosa. E praticamente tu hai questa pila, diciamo, di dischetti e ti sposti da una tessera all'altra. Per fare l'azione devi lasciare un aiutante in omaggio. In più, se tornando te lo riprendi, puoi rifare quella stessa azione. Quindi in pratica ti muovi lungo tu questo tabellone fatto di tessere, quindi è componibile, e in teoria la partita dovrebbe essere sempre diversa, perché, diciamo, siccome la posizione delle varie tessere cambia un minimo, ti cambia la partita. Tabellone modulare. Esatto. E poi tra l'altro molto bello il fatto che abbiamo deciso di farlo diciamo double fast tedesco-inglese, così anche chi non sopporta tanto il tedesco si può accontentare, no? Ragazzi, senti che sta entrando Alan nella conversazione. Adesso gli facciamo subito una domanda, gli diciamo subito, secondo te? E lui deve subito dire qualcosa, anche se non sa nulla, va bene? Appena entra. Alan, ci sei? Sì, ci sono. Ecco, allora rispondi. Rispondi alla domanda. Secondo te? Ha ragione Stefano. No, grande. Dai, hai piccato quello giusto, capito. Volevi esordire dicendo una cavolata. Buonasera. Vabbè, dai, niente, ti portiamo velocemente alla pari e ti diciamo che siamo verso la fase finale del commento sui nominati e consigliati dello Spiel des Jahres. Allora posso chiudere? Io vi saluto la prossima volta. Facciamo... No, vabbè, ma nel senso che puoi dare il tuo contributo se hai giocato qualcuno dei giochi che mancano. Cioè, abbiamo finito adesso di parlare di Concordia e Rococò e stava finendo di parlare di Istanbul. Ah, non abbiamo detto una cosa, io Concordia ci ho giocato direttamente con Mac e ho giocato nella versione Britannia che ancora deve uscire. Yes! Sì, era la Play. Ma infatti il Mac viene tutti gli anni alla Play. Infatti l'anno scorso io avevo giocato con lui Concordia. E poi gli avevo detto che l'avrei comprato, ma poi in realtà non l'ho preso. L'ha preso il Berna. No, io sono giustificato, io uso giustificazione, ho preso i soldi per giochi, quindi quest'anno niente. Niente. No, vabbè, volevo solo dire appunto in Istanbul, diciamo, la cosa un po' particolare è il fatto che in alcune di queste tessere ci sono delle azioni che sono, come dire, un po' fortunose, ed è un po' una novità per il nostro Dorn, che di solito ci fa calcolare un po' tutto, no? E quindi insomma, ci sono delle tessere, non so, ad esempio, dove tu puoi prendere delle monete, però diciamo tiri un dado, no, due dadi da 6 e dici, che ne so, 7. Se esce da 7 in su, prendi quelle 7 monete. Se esce da 6 in giù, prendi solo 2 monete. Quindi tu potresti dire 12. Guarda, questa meccanica l'ho vista anche in Poeazzi. Ah, vabbè, per dire, esatto. E quindi no, vabbè, sono piccole cose, è vero, magari è una meccanica che non ti aspetti però in un gioco del genere, quindi l'ho trovata, non so, dire, rinfrescante, no? Ti chiedo una cosa, perché mi sembri un cultore di Dorn, cioè Dorn, sì, in effetti, cioè, di roba così, cioè, è effettivamente considerato, ti dico la verità che leggo, cioè dico, cacchio, è di Dorn, però, cioè, di roba effettivamente clamorosa, cosa fa? Vabbè. Io leggo al volo, no? Lui ha fatto Traders of Genoa. Allora, nel 2012 ha fatto Waka Waka e Las Vegas. Sì. Yeah, Las Vegas è fighissimo. Mi piace un totale. È il mio apripista perfetto per i miei per i non gamer. Lo uso, sì, cioè, per... la gente ci va sotto con questi dadi. Tra l'altro, Las Vegas era tra i nominati dello Speed Arts del 2012, no? Rightly so. Quindi mi state dicendo che lui è fighissimo, perché fighissimo perché è stato a Las Vegas. No, chiaramente no. I dadi, poi. Chiaramente no. Poi però, Diamond Club, che è il gioco da Ravensburg, è quello. Sì, credo che sia passato da casa mia, non sia riuscito neanche a farsi aprire. Dragon Earth, se non mi ricordo male. Possibile si chiami Dragon Art, un gioco di un gioco suo si chiama così, sì, non è tanto neanche fai notabili. Poi abbiamo Arcadia, lui 14, Jumbo. Sì, perché c'è sta fissa dell'Africa, sì, Asante, poi Asante, esatto. Waka Waka. Poi ha fatto quel gioco dei Bradi. Come dire, è un po' considerato dai gamer è Goa. Sì. Traders of Genoa, forse. Ecco. Ma poi ne poi ha fatto tre paginate, ma alla fine, cioè, se la vedete, titoli così clamorosi, io non è... No, sì, ma devo dire che invece in Germania, come sono titoli però molto, cioè, ad esempio, per dirti, un Jumbo piuttosto che sì, un Asante, lo trovo là in negozio, quindi capisci che se lo tengono, cioè potrebbero benissimo buttarlo, voglio dire, no? Mi conto che ha fatto anche, cioè, per l'Ansim Group gli ha fatto Titania, probabilmente pensavano che facesse chissà che cosa, invece sì, quello in effetti l'ho trovato a 5 euro. Non sarebbe affilato nessuno. Nessuno, no. E poi fai conto che Titania, lo stesso meccanismo, l'hanno riutilizzato di fatto in giochi successivi con più successo. Però ha fatto il vecchio, non ti era piaciuto il vecchio? No. Lo ha comprato cosa? L'aveva comprato il Berna, infatti, non io. Ok. Sembrava proprio, sai, un gioco senza niente di nuovo. Ok, ufficiale, il Berna è colui che compra i giochi se a te non ti piacciono, cioè sai, è da provare, però a me mi fa cagare, lo compra il Berna. Vabbè, lo prendo io, dai. Esatto. No, guarda che funziona più o meno così. Con Concordia è andata così, con questo vecchio è andato così, insomma. Ma d'altra parte, cioè, ti fai conto che da me ne passano un numero sfolgorante, certo, cioè a questo punto, se effettivamente fai parte del mio gruppo e vuoi partecipare, cosa fai? Prendi quello che non prendo. Certo, chiaramente. Anche perché tutto il resto, in bene o male, se gli interessa, ti fai conto, ecco, una cosa che misura quanto Splendor è piaciuto è che difficilmente ce l'ho in casa, perché è uno dei pochi giochi che me l'hanno chiesto in prestito tutti. Quale, scusa? Splendor. Sempre le fish. Sì, le sì, fish sì. Però se le tiene a casa. No, perché in questo momento c'era il Bern. E me l'aveva chiesto anche Axaroth, poi non ha resistito, alla fine, dopo che me l'aveva seduito, il giorno dopo l'ha ordinato. Si vede che anche, secondo me va a letto anche lui con le fish, tic-toc, non riesce a resistere a questa cosa. Comunque, non, via, non andate mai a un casino, perché impazzite. No, ma ci sono anche stato, è bello quello. Però non mi ha dato la stessa sensazione. Capirai, te stai lì in Liguria, è un attimo, arriva a Monte Carlo. No, ma sai cos'è? Questa cosa in realtà mi salva. Cioè, in realtà, secondo mia moglie, la cosa che mi ha sempre salvato a me dal farmi prendere dal demone del gioco è il fatto che non mi piace perdere. Ok. Cioè, il concetto che gli sto dando dei soldi a sta gente mi uccide. Cioè, unisci proprio questa radice ligure del dare soldi alla gente. In più il concetto che mediamente nei giochi di d'azzardo perdi. Sì, è la definizione del gioco d'azzardo più o meno. E allora tutto questo fa sì che io non riesco a essere schiavo del gioco d'azzardo. Cioè, io gioco per vincere. E quindi non ce la fa. Vabbè, quindi niente. Tre consigliati, avete giocato qualcosa? No, c'è Amerigo. Cioè, guarda, non so se stasera sono particolarmente cattivo, però Amerigo fa veramente schifo. Non mi è piaciuto neanche il peggior Feld di sempre. Operazione puramente commerciale. Qualcuno vuol dire qualcosa di positivo per Amerigo? No, tra l'altro, se non sbaglio, l'avevano kickstartato, no? Non mi ricordo. Sì, questo, cioè, qua guarda, veramente. Cioè, la Queen Games, sappiamo che sono proprio. La Queen Games stanno facendo una politica, hanno scoperto che ci sono, che molta gente li colleziona i giochi, no? Cioè, è una banalità, ma. Qualsiasi cosa esce, me lo compro. E allora a questo punto loro cosa hanno fatto? Allora stanno facendo tutta una serie, praticamente io lo considero una sorta di print on demand. Nel senso che loro. Tutti gli effetti, sì. Fanno, dicono ok, io farò 2.000-3.000 copie per gli americani, perché poi è fatto per gli americani questa roba qui, e la metto su Kickstarter, tanto più o meno la gente li compra, anche perché probabilmente la Queen non è distribuita in America da altri, e quindi mediamente in Kickstarter ha successo. Sei? Sì, sono tornato. E quindi praticamente significa che loro, quasi ogni titolo che propongono su Kickstarter viene finanziato, e secondo me drenano risorse per poi fare dei altri giochi. Sì, ma poi drenano risorse anche ad altri, che forse meriterebbero un po' di più di una casa, cioè una casa, sì, così grossa non ci avrebbe neanche bisogno, onestamente. Attenzione, sì. Qui c'è anche da guardare al ritorno d'immagine. Io non penso che la Pegasus sia la Queen. Che la Queen sia stupida, cioè se loro lo sanno che se fanno un Kickstarter il loro gioco verrà praticamente passato al setaccio. Quindi se fanno un gioco. Per loro è che semplicemente non si sono dovuti prendere un distributore americano. Sì, va bene. Sono d'accordo. E fra parentesi, sicuramente non lo fanno per avere i soldi in anticipo, perché non credo che sia così talmente piccola da dover soffrire di questa. No, ma infatti se vedi le loro presentazioni, praticamente il gioco è già fatto, è finito. Nessuno dubita, sì, che quel gioco venga fatto, però in realtà Kickstarter, dal punto di vista della visibilità e della pubblicità, è un volano della Madonna. Cioè ogni persona, guarda, che ti fa un, scusa, un che te lo supporta, hai ragione, ti pubblicizza, però, cioè, lo fai in mezzo ai titoli della Queen Games fatti su Kickstarter. Ci sono dei fenomeni parastatali come Urbanization, Locomotive Works, li va a cercare, Edo, Lost Legends, che io non l'ho visto direttamente venduto da nessuno, Speculation di tutti della Queen Game, sì. Templar, The Secret Treasure, Tortuga, no, veramente tutti roba che non ho mai sentito. Ma perché loro, cioè, è roba che loro hanno tutto finanziato. Cioè, Tortuga avevano chiesto 10.000 euro perché hanno detto che probabilmente ne stampavano, non lo so, 500 copie per gli amici, e ne ha fatte 28.000. Cioè, comunque, il tema è pirati. Onestamente, non ho idea di cosa diavolo parli. Sì, pirati. Però 572 lo hanno supportato, e loro stamperanno queste 1.000 copie. 400 le bruceranno o le cercheranno di vendere a Essen in combo con qualcos'altro. Templar, più o meno solita roba, a parte il Berna, che era l'unico che insisteva a volerlo giocare, forse perché c'è scritto la parola Templare di sopra. Sì, tra l'altro Templar era pure un remake di un gioco che aveva tutto un altro tema, vabbè. Poi Speculation era un editore di una ristampa di un gioco vecchio, anche lì 10.000. Sì, hanno fatto anche Tebes. Sì, adesso hanno fatto Tebes, ma questi sono i titoli fatti così. Poi ti fai conto che hanno fatto un Escape Big Box, hanno guadagnato $250.000, Sì. Cioè, Escape Big Box. Sì. Così sì, come sì. Hanno fatto. Ma questa devo dirvi, l'ho vista in vendita anche qua. Sì. No, ma ci sono le Big Box di qualsiasi cosa, Carcassonne, e con tutte le espansioni, una roba esagerata. Ma Tebe, non ho capito, l'ha rifatto per il mercato inglese e altro? Americano. Americano, è stato $80.000. anche perché sì, te l'ho detto, loro non hanno la distribuzione, hanno inventato sta roba qui e con questo tagliano la distribuzione, vendono il prezzo a più del prezzo che lo venderebbe un negozio online. Sì, perché in realtà ormai te beh, lo trovi a un prezzo accessibilissimo. Bravo. E hanno le vendite sicure prima ancora di stampare, cioè per loro è win-win, cioè è geniale. E l'unica cosa che mi dispiace che... Poi vedo che tra le reward ti mettono anche i giochi vecchi che magari non sono riusciti a finire di vendere, tipo Marani. Sì, guarda, Marani è un pacco pazzesco, cioè credo che ce ne va a avere un miliardo di copie. L'unica intelligenza loro è che se continuano a vendere in questo modo qua. Sì. Cioè, secondo me non vale, non, Marani non vale l'aria che occupa. Mamma mia, ma non ce l'hai con tutti oggi, eh? Allora, è ufficiale, il podcast serve a Fabio per sfogarsi di tutte le recensioni che non scrive perché i giochi non gli piacciono. Cioè, diciamolo a tutti quanti. Allora, Fabio ha impostato giochi sul nostro tavolo in modo tale per cui non escono recensioni negative e quindi tutti dicono ah, ma cacchio, vi piacciono tutti i giochi? No, perché le recensioni che non escono sono quelle dei giochi che non ci sono piaciuti e Fabio usa il podcast per come dire, sfogare questa sua No, ma perché guarda, il discorso poi è questa cosa qui del è normale, cioè io non è che abbia, non ho tantissimo tempo sfortunatamente, in passato scrivevo di più di quanto scrivo adesso. Adesso fortunatamente ci sono parecchi collaboratori e quindi c'è più spazio per loro. Allo stesso tempo non ho tantissimo tempo per scrivere, quindi riduco. Se devo scrivere un articolo massimo due a settimana, cioè mi ci metto a scrivere su una roba che mi è piaciuta. Certo non faccio l'articolo sul gioco che l'ho giocato a tre partite, una partita o due partite, poi l'ho buttato via perché facevo il boh, cioè perdo del tempo. E onestamente non ho neanche tutta quella, quel desiderio, quella cattiveria di voler parlare male di qualcosa per il gusto di farlo, perché poi tante volte non è piaciuto a me, sì, cioè sì, la maggior parte delle, io mi ricordo quando tanti anni fa uscivano riviste tipo Zap 64 per il Commodore 64, roba del genere, e c'era lo stesso discorso, dice ah cacchio, ma scrivono solo commenti positivi, combinazione quella volta che usciva il 5 andava a vedere e dicevo cacchio, ma a me è piaciuto quel gioco lì. Perché poi la maggior parte, cioè, ci lavorano sopra in effetti la gente e cioè, un gioco che proprio sia oggettivamente scarso non è così facile trovarlo adesso, cioè è più facile che siano giochi che è difficile percepire. Ci penso io di solito. Sì, di solito quelli di Tovite. Sì. Comunque, finendo questo discorso della Queen, fai conto che hanno guadagnato $160,000 a marzo per la vendita delle big box di Kingdom Builder. Che no, non mi dire che è una roba che sarebbe da presentare su Kickstarter. Madonna, Kingdom Builder, quando l'hanno fatto Spiel des Charmes, volevo ammazzare. Perché ci ho giocato $60,000 e mi ha fatto. Prendo praticamente in America sta roba. Cioè, i big box di fresco $117,000 è incassato. Di fresco. Per non parlare di Darkest. Mamma mia. Gioco cooperativo che non ha veramente, non ho sentito più parlare mai. No, non lo non sbocco. Dopo essere ha incassato $200,000 su Air. Ma gli americani si mangiano tutto, come visto che hanno il McDonald's. Intelligentemente loro glielo fanno mangiare. Cioè, giustamente. Tienlo. Non l'avevo mai visto da questa prospettiva, cioè il Kickstarter utilizzato come sistema di distribuzione, bypassando quindi la distribuzione ordinaria americana. Guarda, credo che i Queen siano gli unici. Però guarda che non è una pensata cattiva. Stanno facendo un ballino di soldi, stanno facendo, quindi cioè. Sì, la tua teoria. Poi sempre proponendogli cose che loro possono digerire, quindi sì, salvo poi come dici te cercare di cioccargli dentro. Certo. Marani. Io non so quanti copie ne ha fatto di Marani, ne ha stampato in momento qui, vabbè. Vabbè. Comunque, sì, infatti guardavo un pochino fra le possibilità, dico, se vuoi, ti possono dare anche Tebe e Kingdom Builder. Esatto. Certo. Che anche lì ne hanno un sacco. Sì, ormai o anche Tebe lì... e Shogun, o Tebe e Amerigo, con solo $115 ti danno Tebe e Amerigo. Tebe Card Game. E poi c'è anche la foto di Marani. Nei consigliati c'è anche Guildhall. Sì. Vabbè, in italiano se non sbaglio l'hanno ritematizzato. Sì, tra l'altro questa è una cosa che quelli da Uplay, come dire, erano galvanizzati da questo. Cioè, sai quando uno ti dice ho fatto una cosa eccezionale? Nel senso che hanno preso Guildhall e hanno rifatto la grafica e ci hanno dato la tematizzazione, è diventato Seven Seas, proprio cosa sì. Poi vabbè, è chiaro che il meccanismo è lo stesso, hanno cambiato la tematizzazione. E in Germania invece l'hanno scoperto quest'anno Guildhall. Quindi sì. Io sto facendo il filo da tanto tempo, non sono ancora riuscito a giocarci. Ma allora io devo dire che cioè... è un gioco di carte, è un gioco di vabbè, carte. Allora devo dire che considerate che mi spiegano sempre i giochi in tedesco, quindi c'è sempre un attimo di blocco. Di prendi poi, perché gli dai il beneficio del dubbio. Esatto. Magari non l'ho capito bene. Le spiegazioni in italiano non sono vere proprio, va bene. E quindi cosa succede? Questo Guildhall vi assicuro che allora da spiegare è complicatissimo. Poi lo giochi è una stupidata. Cioè c'ha mille regole, regolette, cose e poi in realtà vabbè, cioè. Sì, è un meccanismo, cioè è un gioco di raccolta set nel quale mano a mano che tu raccogli personaggi si potenziano gli effetti della carta che giochi, questo è un po' sintetizzato, diciamola così. Sì. E comunque il meccanismo poi ripeto, secondo me potrebbe anche, cioè forse questo concetto di difficoltà di spiegarlo che l'ha fatta entrare negli esperti, ma secondo me, come dire, ci stava anche di là. Che sì, perché infatti quanti più gli ha dato lo Spiel des Jahres, il sito dello Spiel des Jahres? 3+. Tre più. Ragazzi, sì. Cioè, a Rushen Railroad cosa gli è andato la cosa? Ma guarda che Rushen Railroad è geniale, 4, perché 4. È geniale perché la complessità è effettivamente da 4, però il design riesce a garantirti una sì. linearità dell'apprendimento eccezionale. Ma lo sai che sono riuscito a giocare? Ecco, Rushen Railroad secondo me è un ottimo gioco. È un gioco che c'è stato un po' di gente che si è messa lì. Sei proprio per il gusto di dire cose, ha detto, ah, cioè, un gioco baccato, perché è un gioco monostrategia. Ma mica è vero. Ma lo so, ma infatti sta roba qui l'hanno detta senza manco averlo giocato. Ah, ecco. Perché io mi sono trovato a giocare, tipo, gioco la prima sera col gruppo di Agzalot, che è uno che li guarda molto i forum, lui, sì. E quindi ha detto, hanno detto che c'è la monostrategia. Vabbè, io cioè Palla. proprio per il gusto di l'ho fatta diversa, uh-huh. E ho vinto. La sera dopo dice, vabbè, abbiamo capito che la monostrategia era tua. Allora, la sera dopo l'ho cambiata di nuovo e ho vinto. Hai vinto di nuovo. Ed è diversa dalla strategia che avevo usato la prima sì, volta. Vabbè, ma questo non fa statistica perché hai giocato con delle persone che ci avevano giocato solo sì. da pochissimo. Sì, però sì. Anche ci fosse una monostrategia, come su, per esempio, su Pochi Acri di Neve, che dicono tutti che c'è stato Hammering, Halifax, sì. che non c'ho mai giocato martellare su Halifax ti permette di vincere, ma ci devi arrivare dopo X partite a saper fare quella strategia lì, e l'altro, cioè, è come dire, e tu quella strategia Hammering, Halifax, per quanto riguarda Pochi Acri di Neve, insomma, la devi adattare a seconda di come gioca l'altro, ma quindi, insomma, è come su In the Year of the Dragon, sì. Dicono tutti che c'è la strategia del compro subito le tavolette reali che ti danno due punti vittoria ogni turno. E gli altri te li fanno comprare tutti i tuoi, di vero? Esatto, cioè, appunto, nel senso... Non è, cioè io ho giocato contro quella strategia tante volte e ho vinto, fra parentesi, un gioco che adoro, In the Year of the Dragon, quindi è forse il miglior Feld. Sì, me. Esattamente, è anche il mio parere. Per la semplicità, per l'ambientazione, ma anche per le meccaniche, meccaniche assolutamente super innovative, non riutilizzate dagli altri, io non capisco per quale motivo. Comunque, detto questo, cioè io li considero un po' odiosi quelli che sparano a zero su qualcosa senza manco averlo. Io adesso ultimamente quel partito lì sta dicendo che è rotto anche Zolkin. Mm-hmm. È rotto anche Zolkin perché qualcuno che ha fatto 400 partite online è arrivato a elaborare una strategia che poi si è messo lì, ha scritto e quelli hanno letto. Ma francamente è un po' come sì, certo. Se ti dici che i gialli di Patricia Cornwell sono prevedibili perché te vai su internet e leggi chi è colpevole. Dici cacchio, ok, cioè, ho capito, sei andato su internet, uno l'ha già letto il libro, è arrivato in fondo, ti dice chi è, per forza dici che poi lo sai, ma se te lo scemo. Cioè, le strategie di Zolkin sono come quelle del poker praticamente, chi sa giocare a poker ovvio che vince, chi sa giocare a Zolkin pure. cioè capisci, tu mi dici guarda segui questa strategia che vinci di sicuro, però se io non ho le malizie che ha il vero giocatore che ha fatto 1000 partite, poi, è ovvio che non ce la farò lo stesso, anche se quello che manca è la capacità di adattarsi. Cioè a Tolkien a uno gli puoi dire grosso modo quella è una tattica buona, però poi se qualcuno te la incastra devi essere te a essere in grado a modificarla, capito cosa voglio dire? Sì, di capire che non funziona più, devi cambiare qualcosa. Come succede che qualche bacchetto ci sia? Per esempio Brugge, che è un gioco di Feld, di carte, si sono accorti effettivamente giocando che una carta è un po' troppo, come dicono gli amici toscani, sgravata. OP, cioè, overpowered. Esatto. Vedi, se ne sono accorti, questa carta è l'engraver, e semplicemente... lo stesso Feld ha detto effettivamente cioè, avete ragione, è una carta proprio forte, la depotenziate, dove c'è scritto due punti per ogni X mettete un punto, punto. Fine. E ci ha messo un punto, esatto. E adesso poi è uscita l'espansione dove ci ha messo la carta modificata, adesso anche qui strali dicendo ah non è possibile, però, può succedere, cioè cacchio cosa ti costa per sapere che invece che due vale uno, cioè la applichi. Il resto è un bel gioco, effettivamente, è un gioco che merita, eccetera. Però, insomma, queste cose bisogna prendere un po'. Adesso Eudo, secondo me, è un gioco che è, secondo me, molto bello, e l'unica cosa che mi dispiace è che sono riuscito a giocarlo molto meno di quello che avrei voluto, perché rimangono tutti spaventati. Quale? Questo? C'è troppa roba da leggere. Lascia Eudo. Perché questo mi dice che il tempo medio di ogni gioco sta calando. Sì, cioè sì, la gente vuole più bassi, certo. No, ma questo era auto evidente assolutamente. Poi Amerigo, dicevamo prima che secondo me è il peggior Feld di sempre. Comunque no. Quando prima ho detto che inseguivo da tanto tempo quel gioco e non c'ero riuscito a giocare, mi sono confuso, perché io in realtà voglio giocare a Dominaer, non a quello lì, come si chiama? Dominaer. Ci avete giocato? No, ma guarda, mi accende qualcosa, ma roba di anni fa. Divinare forse. No, non divinare. Dominaer della AEG, che è sempre nella stessa ambientazione di Guild Hall. Sì. No, di Love Letter, vuoi dire? Ma è lo stesso. Non è sempre anche Guild Hall? No, non credo. Non lo so, però. Tempest, scusa. Sì, è l'ambientazione Tempest. Sì, allora sì. Il mondo è quello lì, ne hanno fatti parecchi, hanno fatto anche Canalis. Sì, Canalis pure non mi convince per niente, a parte che c'è il nome di una velina, però quindi sì. Già mi abbassa un po' il livello di interesse. Sì, dipende, dai punti di vista. No, ma non ci crederai, ma sui podcast, quando è uscito Canalis, sì. Sui podcast americani dicevano, mi raccomando, scrivete Canalis, cioè se volete cercare il gioco, scrivete Canalis BGG, altrimenti esce fuori una soubrette italiana. Ti davano il consiglio per evitare la Canalis, quella vera, che come immagini non sarebbe nemmeno da evitare, insomma. No, comunque vabbè, c'era effettivamente questo Canalis, stavo cercando di ricordare un attimo qual è il titolo di cui parli, perché non mi sembrava che si chiamasse proprio così. Sì, Dominaer. Dominaer. Sì, quell'anno lì me ne sono un po' persi quelli, nel senso che ne ha fatto una pilata, sì. Cioè Dominaer e Mercante e Courtier. Ma quei due, Courtier e Mercante, li avevo scartati ascoltando le recensioni, invece Dominaer m'aveva convinto. Solo che non torna... sai quando i titoli ti passano davanti e perdi il treno? Ti rendi conto che il bello degli americani era che a Essen, mi ricordo distintamente quell'anno, Courtier, Mercante e Dominaer costavano una roba tipo 40 euro, una cosa del genere, e semplicemente l'ultimo giorno erano già 50%. Che è una cosa che mandò in bestia alcuni amici che l'avevano comprato, sai, col 15% di sconto in preordine. Sì, certo. Salvo poi scoprire che lo davano a 50 l'ultimo giorno, gli sono girate le scatole, sì, in un modo si siete presi un attimino in giro. Vabbè, chiudiamo questa parentesina. E l'ultimo titolo che lo vedo che nessuno di noi vuole nominarlo è Bloodbound. Sì, io più o meno ho una vaga idea, diciamo. È una sorta di via di mezzo tra il gioco dei lupi, che sarebbe... come si chiama? Lupus in tabula. Aspetta, no? Bloodbound ci ho giocato a casa di Sergio. Sì. Non è male, sai. Giochi lupi e Resistance. No, c'è il tema vampiro, c'è quel disegno davanti che la grafica fa adatta ai ragazzetti di 12 sì, anni. Sì, sono praticamente sono delle foto photoshoppate, fa veramente, cioè, veramente la grafica brutta. Però il gioco non è banale. Cioè, il discorso è quello, perché si usano i disegni al posto delle foto? Ecco, questo è l'esempio di che effetto può fare le foto in un gioco da tavola. Ecco, quello è l'effetto Twilight. Volevano riprodurre l'effetto Twilight qua. Ma no, è proprio l'effetto brutto, non è che no, sono d'accordo, esatto, cioè, l'effetto Twilight, cioè, l'effetto brutto. Mi allontana proprio. Sembra di comprare, non so, le come si chiamano i fumetti, le telenovele a fumetti, come si chiamano? Sì, sì, sì, è vero, i fotoromanzi. Esatto, i bravi fotoromanzi. L'effetto è quello, eh. E comunque l'hanno infilato dentro e è entrato lì. No, io, ma guarda, cioè, che le meccaniche sono, non sono male, cioè, pensato bene. Sì, sì, okay. ci ho giocato, perlomeno io posso dire, ci ho giocato e insomma, a me io ti dico, cioè, mi rifiuto di acquistarlo, se qualcuno lo comprerà, magari lo proverò. Comunque, ecco, diciamo che questa qua è un po' tutto l'elenco dei titoli, ecco. Forse quello che a me, diciamo, ovviamente solleticava di più era Shine Raven, l'abbiamo capito. Fra i tre, ecco, la cosa che volevo dire è che gli italiani sono stati abbastanza intelligenti, i nostri editori, perché praticamente dei sei titoli nomination, cinque sono già o distribuiti o da distribuire. Dai, vuol dire che hanno naso. Sì, sì, no, hanno preso bene, perché Camelap se l'è preso la Uplay, sì. Splendor e Concept alla Stereon, Istanbul alla Stereon, Concordia l'ha preso la Cranio, e tutti prima che ci fossero le nomination, quindi... Bravi, sì, bravi... Sì, bravi, ormai hanno l'occhio già il riscontro, tanto Concordia era già come dire, era già fatto vedere la sua potenzialità a fine Essen, quindi... Però fai conto che non ricordo che abbiano mai tradotto un MacGertz fino ad oggi, quindi è il primo titolo di Gertz che localizzano. Ha anche un senso, perché tutto sommato sulle carte c'è un piccolo testo in lingua, quindi ha anche un senso sotto quell'aspetto lì, averlo preso, ecco, perché è vero che non è un testo difficilissimo, però, cioè, ha un sì, senso sì, anche per quel motivo lì. Mentre è strano che non hanno ancora localizzato Brugge. ma è lungo, è da localizzare. Vabbè, cioè, devi stampare le carte, no. Penso io che ci gioco in tedesco. Cacchio, ci vivi in Germania, ma l'avrai imparato. Insomma. Insomma. Ma va là, dai, che fai le presentazioni dei giochi agli editori tedeschi e le fai in tedesco. No, soprattutto ti ricordo la scena del tuo vetro, quando siamo andati al concessionario, ma vabbè. Sì, sì, quando mi è caduto il vetro della macchina a Essen. Mi sono fatto una nottata con il vetro tirato giù, grandioso. Fortuna che facevano tipo 6.000 gradi in Germania. Siamo andati al concessionario, è stata lunga la questione per sistemarlo. Vabbè, okay, no, però abbiamo perso la bellezza dell'aneddoto, cioè, lo sapete voi perché... No, vabbè, scriveteci un'email se volete saperla fino in fondo. Sì, okay. Sappiamo che lo userai per giocare a Dixit. Esatto, esattamente. Esatto. Con Stefano praticamente si parlerà solamente di quell'Essen lì. Sì, hai trovato il bacco di Dixit. Esatto, vabbè, comunque, okay. Questi qua abbiamo fatto un po' una cenita insieme dei titoli. Adesso, giusto prima di chiudere, che cosa è rimasto clamorosamente fuori? Allora, sicuramente nei Kenner mi viene in mente Glassstrasse. Sì, Glass Road, sì, scusa. Quest'anno sì, quest'anno è rimasto fuori Rosenberg. Gluckauf, come si chiama? Sì, Gluckauf, che effettivamente... Cole and Baron, no? Sì, Cole Baron. Ah, aspetta, Cole ragazzi, Spirium. Sì, Spirium, però effettivamente non ha sfondato un cacchio. No, però io non ci ho mai giocato, ma è rimasta la curiosità. Anche se ho letto io ci ho giocato e non mi è rimasta la curiosità di giocarci. Vabbè, ma te Yunnan quasi l'avrei messo. Invece mi è piaciuto tanto Nations, quello sì. Nations mi è piaciuto. È riuscito a entrare, l'ho preso ed è riuscito a entrare nei titoli che tengo, quindi ci ho giocato anche diverse partite. Effettivamente, secondo Nations mi rendo conto che è un po' pesante per loro. Cioè, Russian Railroads c'è entrato proprio per benedizione divina, perché Lansing-Gluck è una casa storica tedesca, è quello che vuoi, ma effettivamente capisco perché non c'è tanto, così come Caverna, se vuoi, è un po' ripetitivo. Sì. Vabbè, ma Caverna era un troppo simile a quello che aveva già vinto, insomma, no? Sì, sì, quello sì. Quello quindi sì. No, effettivamente è strano che hanno lasciato fuori Kamer Kiesling, quest'anno niente, c'avevano Nauticus e Glukauf. Nauticus alla fine non è piaciuto tantissimo. Glukauf invece mi ha giocato parecchie partite, ci è sembrato un gioco elegante proprio. Cioè, proprio bello perché è facile, veloce, è diventato un filler, è diventato da noi. Ci giocavamo praticamente ogni sera, ogni volta che giocavamo qualcosa, prima di chiudere facevamo una partitina, in mezz'ora facevamo una partita a 3-4 giocatori. Mi piace, è bello di quell'effetto lì. Perché l'abbiamo portato da Agzarot a giocare, no? Che loro hanno dei tempi di gioco moltiplicati per due. praticamente, cioè, li vedevo proprio, sembrano impazziti a vedere, nel senso che vedevano che giocavamo tutti velocissimo, no? E allora erano costretti a giocare anche loro veloci. Però non saprei spiegartela, è come la sensazione di vedere giocare i cinesi che giocano a Mahjong, no? Velocissimi. Che giocano velocissimi, ta ta ta ta ta, e lì uguale. È una cosa fighissima. Vabbè, basta, queste sensazioni che ci devi essere per capirle. Vabbè, niente, dai, più o meno la puntata l'abbiamo fatta anche stavolta. Sì. Sì. A me è spiaciuto un po' che non abbiano nominato Yunnan, perché anche se era di un editore un po' minore. Sì, sì. No, io non era veramente male. Sono d'accordo, l'ho scoperto tardi e mi piace molto. Però nello stesso tempo noto le facce un po' smarrite degli altri quando lo tiro fuori. Quindi forse non è per tutti, cioè con questa vaga sensazione, perché io sto continuando a portarlo. Ma stiamo parlando del Kennerspiel, uno deve essere un... Sì, ma guarda che conoscitore. Il gruppo con cui gioco, cioè, non è che c'è tutta gente che gioca roba pesante. Sì, però sì. Ti ripeto, io lo porto, lo tiro, metto sul tavolo e non mi riesce mica tutte le volte di farlo giocare. Ok. E poi curiosamente, forse mi piace anche perché è uno dei giochi nei quali ho la percentuale di vittorie più bassa. Ah, ok. Quindi proprio non ci sono ancora entrato dentro. Quindi la sfida di capirlo ancora sì, ti stimola. Sì, ancora vinta quella sfida lì, sì. Credo io in realtà ho un po' paura di sfidare Fabio, un po'. Chi? Cioè, no, non adesso non esagerare, no. Beh, ti ricordo che abbiamo giocato a Nautico, sei vinto tu. Vabbè, non è un fiore, non fa primavera. Però no ragazzi, Fabio, sempre io ho vinto, allora un po' capito, mi sa che è di quelli che al tavolo ti stracciano e poi ridono di te. No vabbè, quello no, ridono di te assolutamente no, l'unica cosa che effettivamente lo dicevo anche a Federico, questa cosa di vederne tanti mi aiuta abbastanza a livello competitivo nella prima partita. Ragazzi, citando Dado Critico, Fabio è uno di quelli spocchiosi che vince e poi fa anche il modesto e te la fa capito, te la fa anche subire in maniera passiva, no? E con questo saluto anche Dado Critico, che leggo tutte le volte, è veramente secondo me il miglior scrittore di giochi che c'è in Italia. Tutte le volte mi appassiono tantissimo a quello che scrive. Leggete Dado Critico. L'abbiamo quasi scoperto noi, l'abbiamo messo, è stato uno dei primissimi che abbiamo messo subito il link. Sì, nella pagina. Comunque ci segue anche lui con reciproco piacere, credo, nel senso che abbiamo partecipato anche al nostro Pesce d'Aprile assieme, perché avete visto il nostro Pesce d'Aprile, parlato, no? Avete fatto caso. Abbiamo parlato del nuovo gioco di Rosenberg, che in realtà non esisteva, Foresta, il gioco tridimensionale sugli elfi. Sì, te l'hai perso. Adesso che l'hai detto lo ricordo, sono fatto due risate quando l'ho letto. E siccome volevamo prepararlo, renderlo credibile, ci siamo messi d'accordo con altri due siti, che sono il Dado Critico e il Gioconauta, perché facessero passare qualche piccola notizia su questa voce anche nei giorni prima del Pesce d'Aprile. Grazie. E in effetti fino alla sera alle 7 nessuno si era accorto che era un pesce, che è stranissimo, perché ovviamente il primo d'aprile fai meglio a non navigare, perché dicono solo cavolate il primo d'aprile. Sì, sì. E invece ci hanno sgamato tardissimo. Quindi comunque un saluto effettivamente anche al buon Dado Barbuto. Ma boh ragazzi, le abbiamo dette tutte. Niente. Sennò qui... Salutiamo tutti, ringraziamo tutti per l'ascolto, ringraziamo anche Alan per la lunga e impegnativa partecipazione. Ha detto un sacco di cose stasera. No, ha detto due cose, però le ha dette buone. Ma mi avete preso proprio a tradimento, proprio a tradimento. Potevo stare solo zitto, più di dire cazzate, diciamo. Ah, va bene, ok, allora un salutone a tutti da Fabio, Stefano, Alan, Federico. Cacchio, davvero? È stata una cortesia che ha fatto Federico. Io sono sempre, io sono sempre ultimo. Non riesci neanche a vincere alla gara chi lo dice per primo, dai. No, no, io parlo sempre per ultimo perché sono quello che edita e quindi poi, insomma, faccio il punto della situazione. Anzi, vabbè, faccio presente a tutti quanti che c'è stato un silenzio lunghissimo fra Stefano e Alan e io l'ho tagliato. Okay. Va bene, saluto a tutti, alla prossima. Ciao. Ciao. Batte puntata, ciao. Sullo stesso Bat canale. Ciao, ciao. Quest'anno la tagli. No, no, non taglio niente. Anzi, lascio anche questa conversazione come un maiale. Va bene. Sì.